Ah, se c'è le prese d'annate perché si ti trovano qui a fare le nozze, va a fare tua. Chi? Quelli che cantano giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Bravo. Invece Umberto Amici Sua cantano avanti popolo. Ma che no, sì, oh, zitta. Guarda che siete beccano con quelli, non c'è scherza. C'è di vivere. Vivere senza malinconia. Vivere. Ma gente, chiamavamo nero! No! L'uomo nero! E la sciroccata, ti facessi c'ha paura dell'uomo nero! Cosa le è accaduto, povera ragazza? Niente, dottore, è una pietra ballerina. Ah, c'ha tutti i figli di qualcuno, eh! Ah, ma figlia di una ballerina! Però la pietra della ballerina, nel senso che la madre faceva la ballerina, lavorava col padre che faceva il cassonettiere, c'avevano una specie di baraccone a Piazza Pepe. Angeletta la cantava con lui, poi hanno aperto la Barriga Minelli e sono andati a cantarla. Poi è arrivato il fascismo, quel fascismo è arrivato la censura e come le altre compagnie hanno perso il lavoro. E poi cosa è successo? A chi? Ma alla ragazza e ai suoi genitori. Ah, e che è successo, dottore? È che Angeletta è rimasta sola, pure. I genitori sono morti. Ha continuato a cantare, cantava pure qui a Cinema Palazzo. Poi hanno cacciato pure da là. E niente, è diventata strana, ha cominciato a dire cose senza senso. Ma non riconosce più la gente. Parlava così, cantava, cantava tutto il giorno e basta. C'è una bambina piccola, piccola, a Via dei Campani. Di chi sta parlando? Niente, tutto. Io ti ho detto senza senso. E non si è mai capita la cagione della perdita del di lei il ragionamento. Dottor, bisogna che qua mi parla l'italiano romano, perché se no io se non lo hai fatto non mi capisco. Cioè non si è mai capito per quale motivo la ragazza è impazzita. Ah, mo' sì. Sembri che c'è già di mezzo un uomo, un tedesco, uno che andava a spettare canta tutte le sere a teatro. Sembri che si sia approfittato di lei. Che si sia fatta la fare sua, hai capito, dottor? Poi è sparito per un po' e è tornata che era così, pure. E adesso? Adesso sta lì. Canta tutto il giorno, dice che deve andare a cantare la Barriga Minelli. Che deve andare a trovare sta ragazzina a Via dei Campani, ma è no, quando tu... Anzi, le posso dire una cosa, che certe volte dice cose che... Sembra che tutti i sette di noi che siamo normali, lo sa? Bisognerebbe sapere chi è il vero depositario della verità. C'ha ragione, dottor. Ma io sto deposito non lo conosco, però io... Qui a Angeletta io volevo tutti bene. Che storia struggente e triste. Non muori. A me mi si stringe il cuore certe volte, guarda. I mortacci vostri! Ma tanto le becco, dannate, sti gran figli, una buona donna, sta parlando a mamma! E niente, dottor, mi scusi, ma sono sti ragazzini che si fanno a campagna a banana e mi tornano tutti insaccherati. Mi lasciavo davanti al camposanto, di tutte, i rane, i rocchi, i lucertoli e il zoccole, sono Assunta! Buongiorno, signora Assunta! Se parlava le dopi! Mi servono i soldi! Sapessi a me! Devo comprare un vestito elegante. Beh, da te, io ho solo sto coso, me lo so già rigirato tre volte. Devo andare a cantare stasera all'Ambra Giovinelli. Come dannate le ragazzi che c'ho da lavorare? Forza signori, oggi fiori di campo e rose, venite! Mi sa che la signora Assunta si è rimasta male. C'ha la gola di paglia. E te credo, lo sanno pure i cipressi del piano che prima di sposarsi faceva la coperta. La coperta? E qua se strilla la coperta. Ma pensi che marito neanche se ne è mai accorto che le faceva la coperta. E poi che fine ha fatto sta coperta? Che coperta? La coperta che la signora Assunta cuciva. Ma dottor, ma lei scherza a far succedere? No, dico, sarà pure il suo dottorone, però? Professorone. E vabbè, sarà pure il suo professorone, però? Ma che professorone? Non c'è lavorato a Piazza dei Scienze all'università, voi? Sì, lavoro all'università, ma come semplice impiegato di concetto. Appunto, dico semplice impiegato di concetto, come lei che mi casca sulla coperta. Forza, qui sono fiorentelli dritti e freschi, che quelli mosci non ce li volemo. Volevo. Ma insomma, di che si può sapere di che coperta parlate? La coperta nel senso che la sua Assunta ha riscaldato mezza San Lorenzo. Con la coperta! Posso con questa coperta! Ho capito, la signora Assunta è una brava donna, la signora Assunta batte bene, La signora Assunta fa... I servizietti! Allora Assunta fa i servizietti! Devi star zitta! Devi star zitta! Oh, dico tutto! Sì, ma sempre zitta della stanza! Tutto, tutto! Ah, vabbè, vabbè, adesso ho capito, certo! Oh, in fondo stiamo parlando del mestiere più antico del mondo! Sì, però, sembri che anche adesso... Anche adesso cosa? Sembri che la signora Assunta abbia aperto l'attività per prendere degli appuntamenti. E affrettatevi con sta bella rosa, se no sta via qualcun altro, eh? Ma non ci posso credere, la signora Assunta è una donna sposata. No, e sembri pure che l'attività vada abbastanza bene. Da tutti gli studenti, tutto, Ma dico, ma chi lo dice? Sì, esatto. Dice pure che il marito, da quando l'hanno richiamato alle armi, lei abbia riaperto suddetta attività, capito? Ma sì, ma chi lo dice? Sei esatto. Tutta roba fresca e profumata, roba che fa resuscitare i morti del verano venite. Vabbè, infine, poi chi siamo noi per giudicare? In fondo quelle che noi chiamiamo donne di facili costumi sono molto simili ai grandi poeti che già danno gioia e confortano i uomini meschini e tristi. Niente, dottore, voi volete un po' di gioia e conforto da andare assunta. Non sono il tipo. Forza, dottore, sono mezza lira per sto pernazzo di Rote di Marzo. Ma a luglio! Appunto, sono più pregiata e rare. Rote di Marzo a luglio, signori. Mezza lira e passa la paura. Voi, signor, siete interessati all'articolo? Sì, ne? Rose o fiori di campo? Rose. Se volete della so pure qualche dente di leone, così ci fa un bel componimento, se fanno. E venite! Ma no, Juane! Ci vediamo al magazzino! A via dei Dalmati! Di fronte al Cassamontaro! Senti un po', un bel che mi dai la controllatina al banchetto, che vado un attimo a prendere due denti di leone del cliente! Sì, ma una cosa di prescia, perché io sono contro la cura e quella di Iole, non è che posso controllare i banchetti vostri, io sono da qua, sono funerale importante! E appunto, mandatemi qualcuno che sono tempi difficili, so. No, allora su quel funerale di monache, sembra che sia venuta a mancare madre Paolina di Villa Mercedes. Grossa perdita, donna di grosso polso. Mi dava il bacchettate sulla mano. Vabbè, faccia l'anima sua. Sono un bel vado. Dottore, sì. Visto che voi siete fissato, no, con tutte queste cose del cervello, Se volete dell'asso, una viola del pensiero. E per voi, non so, un prezzo speciale. Ma voi sapete, io i fiori li prendo sempre da donna Iole, qua di fronte, un conto aperto, spero comprenderete. Comprendo. Mi sa che a voi più che Iole vi piacciono i gradevoli. Buona giornata, dottor! Buona giornata, Iole. Beh, Alberto, lo sai anche tu, io i fiori li compro sempre dalla signora Iole. E come no, leccioso. La signora Iole e sua cognata Franca. E a proposito, l'hai visto stamattina? Perché no. Non l'ho ancora incrociato. È strano, perché ancora ci sono visti. Né Iole e nessuna cognata Franca. Vabbè, aspetterò, prima o poi arriverà. E poi che mi arriva, sia Iole che sua cognata Franca. Non capisco questo allusivo cognata Franca. Assunto, dove ci sono quelli San Pietrini, che te non è voluto per la tua Franca. Ma cosa dici? Ma no, è quel pacchettino di ieri. Ma fa la cognata Franca! No. La signora Franca è una donna per bene, Ma chi ha detto il contrario? Ah, e mia Angeletta ha detto il contrario, anzi. Sarebbe anche una cosa molto carina, voglio dire, che ci darebbe di male. No, voi siete scapole. Lei è vedova. Ah, la signora Franca è stata sposata? Sì. E io conoscevo pure il marito, e sono Mario, una bravissima persona, un comune grosso. Porello quando gli è arrivata quella notizia. Quale notizia? Il dottore aveva detto che la Sala Franca non poteva aver figli. Sono Mario che è rimasto male, è diventato cagionevole di salute e se n'è andato a Spagnola. E dove l'aveva conosciuta? La Spagnola. Influenza. Ah, l'influenza! Cosa qua di?

Arrivo! Oh, ho detto che arrivo, arrivo! I corvi stanno arrivando, spostare i pappagalli rossi dove il tacco bacia il Vesuvio. Sei brava! Brava, Angeletta, adesso vai da gentilezza. Loretti, ci sai indossare? Sì, sì, mi dicono sempre i prescetti delle pulizie. Ecco, così magari ti faccio quello che è il prescetto delle pulizie. E gli dici tutta sta canzoncina all'orecchio, sottovoce, e gli dici che è da parte di Marcello. Oh, mi raccomando, Angeletta, guardami, devi parla solo con gentilezza. Con gentilezza. Se qualcuno ti si avvicina, ti dice qualche cosa, tu devi fare la punta d'onta. Mi servono i soldi. E vabbè, prima fai la consiglia e poi le do la monetina. Mi raccomando, mangiare sotto voce a lui. Perché mi guardi così? Così come? Con quel... quell'aria drusce e vari gianzaetta contro i turchi. Che l'ho fatto, mo? Cari Pappo, ci avrei tornato di lì, Cari Pappo! Ma come la settimana che non c'avevo la lira, non riuscivo a guadagnare niente. A casa non c'avevo niente da mangiare. A malapena un po' di latte per quella mia. A Roma non si vede una scivola neanche a parlare la oro. In più fa un caldo che se muore, io mi alzo all'alba, vado fino a via Urbana, torno stanca a piedi, sudata al verano. E te che fai? Te presenti ai 11 con i guantini di pizzo e te stendi tallucchi come la signorina grandi firme. Ecco papà. Vabbè, ho fatto un po' tardi perché mi sono fatta il bagno. Il bagno? Ma che domenica che ti fai il bagno? Che c'entra? Ma fa caldo, io mi sento tutta appiccicosa. Ah, io a me, io sento la puzza. C'è anche la forza di sentire la puzza. E poi scusa, ma la donna che a sto bagno dove te lo saresti fatto? Cucina. Ma cucina c'è il rigore. Ah beh, quello è sordo. Vabbè, sarà pure sordo, ma ci vede, ti piacerà, ci vede benissimo. Ma dormiva, non si è accorto di niente. Che vergogna, speriamo che capisco niente. E poi scusa, come hai fatto a venire via a bagnarla da sola? Ah, ma mamma la sorella Augusta. No, perché in cambio gli leggo l'avventura del sordo a Burio. Te, ma si sa legge. Che c'entra, guarda i figure, immagino, un vento. Oh, oh, sono Augusta, ma pure la fatta la schiena. È buona quella, adesso lo saprà tutto il palazzo. Non dice che vuole cambiare a casa, non gli piace quella dove sta. Ma chi ha sono Augusta? No, è stato un Purio, è anche l'avventura. Ma che mi prego, perché sto a Pampurio? Ma tutti i pochi giorni sto pensando al Pampurio. Ah? Ah? O vedi che la senti pure te? E saranno i fiori, saranno. Oh, cominciamo. I fiori del banco di mio padre, buon anno, al salattiglio, profumano. Hanno sempre profumato. Questa, che la senti, Marichina. Che? Marichina! Ma questa è la saponetta che mi ha regalato il dottor Arvise. Dice che viene da Milano. Oh, ve la chiude da Milano, ma puzza come la colata massima. E poi smetti di accettare caglia quel babba sotto. Ma c'è il dottore. Ma sarà pure il dottore, ma a me mi va il fesso. Brava, continua a fare papà dietro te. Ma da chi? Ma come da chi? Franca, dalla gente. Oiole, ma stanno tutti disperati, stanno a pensare a me, stanno a pensare. Vabbè, Franca, ma come te pare? Margherite! Chi le vuole le margherite stamattina? Le vuole lei per la signora? Niente, eh? Sono Gemma! Come va? Sì, dai, siedi davanti. Bacio i pubi. Margherite! Che margherite che ci avevo stamattina! Sorpino! Ho sentito che calo oggi! Non se respira proprio! Margherite, le margherite, eccole qua, signori, le margherite! Ah, sarà pena! Mi siete venuti più in giro! Mi siete fatta molestiera, eh! Ah, basta! Come fa con i fiori? Mi siete stati a fare i salameletti qua! E che devo dire? E che dovrai dire? Gelati? Gelati! Nessuno. Un po' stupidità perché ho pizzichetto alla gola, che secondo me stupidità mi sta proprio fregando. E come passare il pizzichetto non si può mangiare? Fiori! A parte che fiori è generico, ci stanno le margherite, le bratoline, la malva, la scudeli. I fiori mica sono tutti uguali, sa? Mi padre diceva che i fiori in uno è diverso dall'altro e ci hanno tutti danni. Quale eroi? Quelli. Tieni. Questa è Cicetta tuberosa. Che è? Cicetta tuberosa. E che c'è un'anima pure sì. Questa? Come si chiama? Cicetta tuberosa. Vengi la sciare sciare! Chi vuole comprare questa? Chi cerca tube cosa? Chi la vuole? Io la voglio. Come si fa a resistere ad un richiamo sì tanto dolce? Buongiorno, sono Franca. Felice giornata anche a voi, signora Iole. Compro io

solamente tu, non ritorni più per riposare sopra il mio cuore, e sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per te, mentre invece il destino più t'allontana ancora. Tu, dove mai sei tu, se non senti più questa mia voce piena d'amore. Buongiorno, io. Siamo svegliati che cammina stamattina? Che non ce lo sai che al mattino ce l'ho in bocca? Guardati, io in bocca c'ho solo quel saporaccio di surrogato di caffè che mi fa mio moglie. Ah, che darei per caffè come quelli della volta, l'ultimo che ho preso è stato prima di essere quello. Ciangele! Ah, uomini! Poi dice perché non si fida più di morti. Ammazza che bei signori sono stamattina, eh? Sono belli, sì. Erano i fiori preferiti di mio padre. Sì, Mi ricordo che mio padre mi raccontava sempre la storia del girasole. C'era sta ragazza, no? Che si chiamava Alizia. Ma si chiamava Alizia? Alizia, ma che ne sai, un bello, un bel antico, importante. E a un certo punto sta ragazza incontra un giovanotto. Alto, robusto, bello. Bello come il sole. E se ne innamora con la scema. Oh, ma pure lui, Pure lui era innamorato di lei. Il padre diceva che lui faceva un amore per campi a tutta Callara. Poi, un brutto giorno, Apollo... Eh? Apollo, è giovanotto, si chiamava così, Apollo. Si chiamava Apollo? No. No? Apollo, un brutto giorno, se ne andò. L'abbandonò. La ragazza, per la disperazione, rimase per 9 mesi sopra il palo. Tanto che i piedi si attaccarono alla terra. E il corpo si irrigidì e i capelli divennero una lucente corona gialla. E così Crizia divenne il fiore. Il fiore più luminoso del prato. Ma quando passava a volo, le girava a portare, guardava da lontano, l'amore per lei era come il sole. Mi ricordo che quando mio padre mi ha raccontato questa storia, stavamo a fare colazione con pane e latte. Non mi piace, lo so, perché fa certi lacrimoni, mi sono scesi giù. Quel giorno mi sono mangiata pane, latte e lacrime. Che c'hai, io? Niente, niente, che c'ho, c'ho fame, dai, che c'ho. Che darei per una tazza di pane e latte? Anche io dici. A volte penso che siamo tutti come dei girasoli. Ci vediamo per cercare disperatamente il calore di una vita che ci ha fregato. Ma che stai? Che devi dire su? Ma che fai, me lasci da solo? Oh? Guarda, è che devi essere più sorridente, devi sorridere più timido. Hai capito? Ma tu ricordi di quando eravamo fidanzatini? Io ero piccoletto, poi già grandicella. Uscivamo, andavamo in giro mano per la mano. Ammazza, non ricordo come fosse ieri. Ma quando? Mi ha portato in giro per cimiteri, per tombe. E poi mi ha regalato il boccolotto. Brava, ti ricordi? Sì. E poi a notte mi hai lasciato sul ballatoio di casa, però vabbè. Vabbè, ti credo. Che sono sempre stato vedro nella vita di ciò. È per questo che so tutto da tutti. È per questo che mi piace più guardare che fare. Però ci ho mai avuto paura della morte. Pure in quello so più. Ma tanto quando un mare si camera per me che cambia, no? C'è sempre quella cosa, no, solo che dall'altra parte. Ma perché sta a fare questi discorsi adesso? Perché ne so io? Sarà sta guerra che mi sta facendo un sacco di vita.

però la fine ha detto che il giorno quello che... 19 luglio 1943 alle 10:30. Franca, devo dirvi che a proposito della mia situazione economica, dell'appartamento, il bagno, eccetera, devo confessare... Ma spesa! Nonna Firmina sta pulita su casa, adesso per festeggiare il matrimonio ho portato un litro di latte e una cireola! Una cireola! Quanto finti ti portava la sì. Sì, ma dai per caravaggio! Eccolo! Ciao, avete il coltello, sono su! Non so, forbicioni! I forbicioni, ma dai, la cireola che i forbicioni! No, no, i forbicioni vanno bene, sta buona te! Mettono pure i bicchieri per latte, sarà su! Ho capito, quante ne volete, mica c'è un ristorante io, se li volete c'è una volta con voi! No, però quando mi vanno persone! Una pioggia alle bombe venne scaricata sul quartiere San Lorenzo.